Era un tramonto caldo e dorato, e mentre Sinclair passeggiava sulla veranda, vide all'altro capo di essa Tom, tutto intento a leggere la Bibbia e seguire col dito ciascuna parola che proferiva sommessamente con aria grave. «Vuoi che te la legga io, Tom?» gli disse Sinclair, sedendosi senza affettazione accanto a lui. «Oh, se non fosse di noia al padrone!» rispose quegli con gratitudine. «Il padrone legge con molta grazia e chiarezza.» Sinclair prese il libro e, guardandolo nelle pagine aperte dinanzi a sé, si pose a leggere uno dei passi a cui erano stati fatti larghi contrassegni dalla mano di Tom. Quando il figliuolo dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora egli siederà sopra il trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti. Sinclair lesse con voce concitata sino alla fine dei seguenti versetti. Allora il re dirà a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno. Perciò che io ebbi fame e voi non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, io fui senza ricovero e non m'accoglieste, fui nudo e non mi rivestiste, fui infermo e in carcere e non mi visitaste. Allora quelli risponderanno a lui: Signore, quando t'abbiamo visto aver fame o sete, esser senza ricovero, o ignudo, o infermo, o in carcere, e non t'abbiamo sovvenuto? E quindi egli risponderà loro: Io vi dico in verità che in quanto non l'avete fatto a uno di questi uomini, neppure lo avete fatto a me. Quest'ultimo passo parve produrre una forte impressione in Sinclair, che lo rilesse due volte, e la seconda lentamente, come se ne avesse esaminato con la mente ciascuna parola. Tom, disse egli, coloro contro i quali è pronunziata sentenza così terribile avranno menato come me una vita comoda, facile, onorevole, non dandosi alcun pensiero di informarsi se molti dei loro fratelli soffrivano la fame o la sete, se erano ammalati o in carcere. Tom non rispose. Sinclair si alzò e si diede a passeggiare in su e in giù con aria pensosa per la veranda. E pareva che si fosse dimenticato d'ogni altra cosa, assorto com'era nei suoi pensieri gravi, tanto che Tom, prima di poterne ottenere l'attenzione, dovette per ben due volte avvertirlo che il campanello del tè aveva suonato. A tavola Sinclair si mostrò pensieroso e distratto. Sedette poi, ma sempre taciturno, nella sala dove erano Maria e Miss Ophelia. Maria si sdraiò sopra un sofà protetto da uno zanzariere di seta, e dopo alcuni istanti si addormentò profondamente. Miss Ophelia lavorava in silenzio alla sua calza. Agostino, sedutosi al pianoforte, suonava un'aria dolce e malinconica. Egli pareva immerso in una meditazione profonda e avresti detto che la musica traduceva il suo monologo interno. Dopo non molto tempo, aperse uno dei cassettini, ne trasse fuori un vecchio libro di musica ingiallito dagli anni e si diede a scorrerlo. Questo libro apparteneva a mia madre, disse egli a Miss Ophelia. Ecco, guardate la sua scrittura. Ella lo copiò e lo ridusse dal Requiem di Mozart. Miss Ophelia si avvicinò. Mia madre cantava sovente questo pezzo, continuò egli. Mi pare di udirla ancora. Sinclair suonò dapprima alcuni maestosi accordi e si mise poi a cantare il grande antico inno latino di Esire. Tom, il quale stava ascoltando seduto nella veranda, fu attirato verso l'uscio da quella soave armonia e là si fermò tutto orecchi a gustarla. Certo, quelle parole erano per lui inintellegibili, ma la musica e l'espressione del canto pareva che lo commuovessero profondamente, massimamente quando Sinclair eseguiva i passi più affettuosi e patetici, e quanto più commosso sarebbe stato il buon Tom se avesse compreso il senso di quelle belle parole. Sinclair pose nelle parole un'espressione di soave e alta malinconia, poiché gli pareva di rivivere nei primi suoi anni e udire la voce di sua madre che guidava la sua. La voce e lo strumento armonizzavano quasi ambedue avessero la stessa vita ed emettevano con un ardore simpatico le dolci e care melodie che l'anima di Mozart concepì alla sua ultima ora, come per accompagnare da sé medesimo il suo proprio funerale. Quando Sinclair ebbe cessato il canto, rimase per pochi istanti con la testa nascosta tra le mani, indi cominciò a passeggiare nuovamente in su e in giù per la sala. Che sublime concetto, disse egli, è quello di un giudizio finale. la riparazione di tutte le ingiustizie che furono commesse nel corso dei secoli, una sapienza infallibile che svolge tutti i problemi morali e un'idea veramente meravigliosa. È terribile per noi, disse Miss Ophelia. Credo che dovrebbe essere tale per me, rispose fermandosi con aria pensosa Sinclair. Io stavo leggendo a Tom in questo pomeriggio il capitolo di San Matteo nel quale si tiene parola di ciò e ne sono rimasto vivamente commosso. Si pensa che le enormità commesse dagli uomini siano la ragione per cui vengono esclusi dal cielo, ma no, essi sono condannati per non aver fatto il bene effettivo, come se una tale trascuranza contenesse in sé tutto il male possibile. Forse, osservò Miss Ophelia, è impossibile che una persona alla quale non fa il bene non commetta il male. Oh, allora, disse Sinclair, come parlando a se stesso, ma con accento di profonda commozione, che sarà di coloro che la propria educazione, il proprio cuore, i bisogni della società chiamavano ad alte imprese e che passarono la vita da infingardi, oziosi spettatori delle lotte, dell'agonia, della miseria dell'umanità, mentre avrebbero dovuto cooperare con l'azione al suo bene. Credo, disse Miss Ophelia, che sarebbe bene si pentissero della loro inerzia e cominciassero a operare. Siete donna d'azione e di proposito, cugina, replicò Sinclair, la cui fronte si rischiarava. Non mi date mai tempo per le riflessioni generali. Voi mi fermate sempre dinanzi all'attualità presente e avete nella vostra mente un adesso perpetuo. L'adesso è il solo tempo col quale io abbia a fare, rispose Miss Ophelia. Cara piccola Eva, povera figliuola mia, esclamò Sinclair. L'anima sua, vergine e candida, aveva meditato per me un bel lavoro da compiere. Era questa la prima volta, dopo la morte di Evangelina, che Sinclair parlava così apertamente di sua figlia ed egli pronunciò quelle parole reprimendo a stento la viva commozione dell'animo. Il mio modo di comprendere il cristianesimo è tale, continuò egli, che a parer mio nessun uomo che lo professi può essere coerente con se medesimo qualora non combatta con ogni forza il mostruoso sistema di iniquità sul quale il nostro ordine sociale è fondato e qualora non sia pronto a sacrificare la propria vita nella lotta. Quanto a me, credo che non potrei essere cristiano altrimenti, benché io abbia conosciuto non poche persone colte e devote che non pensavano al pari di me. E vi confesso che l'apatia di certi cristiani a questo proposito, il loro accecamento sopra ingiustizie che a me fanno ribrezzo, contribuirono più di qualunque altra cosa al mio scetticismo. «Se voi sapevate tutto ciò, chiese Miss Ophelia, perché dunque non vi conduceste bene?» «Perché avevo solo quella specie di carità cristiana che consiste nel giacere sopra un sofà a dir male della Chiesa e del clero, non trovando in essi la perfezione che si vorrebbe né il vero sacrificio». «Ebbene», rispose Miss Ophelia, «voi vi comporterete ora in modo diverso». «Ah, Dio solo conosce il futuro», disse Sinclair. «Ora io ho più coraggio di prima perché ho perduto tutto e chi niente ha da perdere può affrontare ogni rischio». «E ora che farete?» «Il mio dovere, spero, verso i poveri e gli umili, appena avrò chiaramente veduto quale deve essere la mia condotta, intanto comincerò dai miei propri servi, per i quali nulla ho ancora fatto e forse più tardi, chissà, che non mi sia dato di fare qualche cosa anche per tutta una classe di uomini. Chissà che io non possa poi salvare la mia patria dalla falsa posizione in cui ella è di fronte a tutte le nazioni civili. Credete possibile che una nazione voglia mai emancipare i suoi schiavi spontaneamente?» domandò Miss Ophelia. «Non so», rispose Sinclair, «questo è il secolo delle grandi cose. L'eroismo e il disinteresse risorgono qua e là sulla terra. I nobili di Ungheria fanno liberi milioni di servi nonostante un'immensa perdita pecuniaria e forse si troveranno anche fra noi animi generosi che non valuteranno in dollari la giustizia e l'onore». «Io stento a crederlo», disse Miss Ophelia, «ma supponete che noi domani sorgiamo a proclamare l'emancipazione degli schiavi. Chi educherà poi quei milioni di neri? Chi insegnerà loro a bene usare della libertà? Qui non arriveranno mai a granché di buono. Siamo noi stessi tanto indolenti e poco pratici che non possiamo dar loro una chiara idea dell'operosità e dell'energia necessaria a farli uomini. Dovrebbero andare negli stati settentrionali dove il lavoro viene tenuto in onore da costume generale. Ora, ditemi, c'è lassù fra voi altri tale dovizia di cristiana filantropia che basti a sostenere il peso della loro educazione, a procurare la loro elevazione morale. Voi elargite milioni di dollari alle missioni estere, ma soffrireste che i gentili fossero mandati nelle vostre città e nei vostri villaggi e spendereste voi medesimi tempo e denaro e attività spirituali per innalzarli al tipo del vero cristiano? Questo io domando. Se noi emancipiamo, siete voi disposti a educare? Quante famiglie accoglierebbero nel proprio seno un nero o una nera e avrebbero poi la pazienza di istruirli, di sopportarli, di inculcar loro sani principi e sentimenti religiosi? E quanti negozianti o industriali impiegherebbero Adolfo se io volessi farne un commesso o un operaio? E se volessi mettere Giovanna e Rosa a scuola, in quante scuole degli stati settentrionali sarebbero ammesse? Quante padrone di casa le prenderebbero a dozzina, eppure non sono meno bianche di molte delle americane, sia del sud che del nord. Bisogna renderci giustizia, cugina cara. Noi facciamo la figura peggiore perché opprimiamo i neri più direttamente, ma il pregiudizio anticristiano dominante fra voi settentrionali è un'oppressione quasi altrettanto dura. Sì. È vero, rispose Miss Ofelia, e confesso d'aver ceduto a questo pregiudizio anch'io, finché non riconobbi che era mio dovere vincerlo. Mi confido però d'averlo vinto, e so che c'è nel settentrione molta brava gente che, ove qualcuno le insegnasse qual sia il suo dovere in cotesta maniera, non esiterebbe a compierlo. Certo, sarebbe assai maggiore abnegazione ricevere i gentili fra noi che mandare missionari da loro, tuttavia, credo che ne saremmo capaci. Voi non ne dubito, disse Sinclair. Sarei curioso di sapere che cosa non sareste pronta a fare se la stimaste vostro dovere. Ebbene, io non sono eccezionalmente buona, ribatté ella. Molti altri procederebbero come me, qualora venissero convertiti alle medesime idee. Del resto, posso assicurarvelo, non mancano negli stati settentrionali persone che già fanno precisamente quello che avete detto. Sì, ma sono una minoranza. E se cominciassimo ad emancipare i neri in numero considerevole, vi sentiremmo presto strillare. Miss Ophelia non replicò. Vi furono alcuni momenti di silenzio e il volto di Sinclair prese un'espressione mesta e pensosa. Non so, disse poi, perché penso tanto a mia madre stasera. Io la sento come se ella fosse vicina a me e mi ricorre alla mente tutto quello che ella era solita dirmi. È strano come le cose trascorse ci tornano talvolta così vive e così vere dinanzi. Sinclair, dopo aver passeggiato per alcuni minuti in su e in giù per la sala, disse: Vado a fare un giro per la città per informarmi delle notizie della sera. E preso il suo cappello andò fuori. Tom lo seguì fino alla porta del cortile e gli domandò se dovesse accompagnarlo. No, Tom, sarò di ritorno fra un'ora. Tom si pose a sedere nella veranda. Era un bellissimo chiaro di luna ed egli stava guardando lo zampillare dell'acqua della fontana che ricadeva in gocciole scintillanti e pareva che porgesse l'orecchio al leggero mormorio di quella e intanto correva col pensiero ai suoi cari, giubilando all'idea di essere presto libero e di tornare nel seno della sua famiglia e gli pensava con gioia che avrebbe potuto consacrare i frutti del suo lavoro a riscattare sua moglie e i suoi figli. In questa contemplazione, Tom si addormentò e vide Evangelina appressarglisi in sogno, saltellando come già soleva, cinto il capo di una ghirlandina di gelsomini, accese le guance, gli occhi raggianti di gioia. Ma mentre egli guardava, gli pareva che la scivolasse dalla terra. Un pallore le velava le guance, gli occhi di lei lanciavano una luce divina. Un'aureola d'oro le circondava la fronte. A un tratto la visione si dileguò e Tom fu svegliato da forti colpi e dallo strepito di molte grida alla porta. Egli corse ad aprire. Vari uomini, con passo faticoso, portavano sopra una barella un corpo avviluppato in un mantello. Il lume della loro lampada si proiettava sul viso di quello e Tom alzò un grido terribile di stupore e di disperazione, grido che rimbombò per tutta la casa mentre gli uomini si inoltravano taciti col loro peso verso la porta socchiusa della sala dove Miss Ophelia stava tuttora lavorando. Sinclair era entrato in un caffè dove si era posto a leggere un giornale della sera. Tom Durante la sua lettura due uomini mezzi ubriachi erano venuti a contesa fra loro. Sinclair e uno o due altri si sforzavano di separarli, allorché gli fu fatalmente ferito nel fianco da un grosso coltello da caccia che si ingegnava di togliere di mano a uno dei contendenti. La casa fu piena di grida e di lamentazioni, di compianto e di gemiti. Gli schiavi si strappavano freneticamente i capelli, si rotolavano per terra o correvano fuori di sé per ogni parte della casa, piangendo e urlando. Solamente Tom e Miss Ophelia avevano conservato una qualche presenza di spirito, in quanto a Maria, e là fu presa da forti convulsioni nervose. Miss Ophelia fece allestire in gran fretta uno dei sofà della sala su cui fu posto a giacere il ferito. La perdita del sangue e il dolore avevano fatto cadere Sinclair in un abbattimento profondo, ma le cure di sua cugina lo ravvivarono alquanto ed egli, riaprendo gli occhi, girò lo sguardo moribondo sulle persone e sugli oggetti che lo circondavano, poi lo fissò sul ritratto di sua madre. Giunse frattanto il medico ed esaminò la ferita. Dall'espressione del suo volto si vedeva chiaramente che ogni speranza era vana. Ciò nonostante, aiutato da Miss Ophelia e da Tom, egli si diede a medicare la piaga in mezzo alle grida, ai singhiozzi e ai lamenti degli schiavi, i quali erano accalcati intorno agli usci e alle finestre della veranda. Ora, disse il medico, bisogna mandar via di qui tutta questa gente. Tutto dipende dal mantenere la maggior quiete possibile. Sinclair aprì gli occhi. Guardò quelle creature desolate che il dottore e Miss Ophelia si sforzavano di allontanare dalla sala. Poveretti! Esclamò. E l'espressione di un acerbo rammarico gli oscurò il volto. Adolfo ricusò pertinacemente di andarsene. Il terrore gli aveva tolto ogni presenza di spirito e gli si era gettato bocconi a terra e ogni sforzo per farlo rialzare era stato inutile. Gli altri cedettero alle esortazioni e alle rimostranze di Miss Ophelia, la quale diceva loro che la vita del padrone dipendeva dalla loro obbedienza e dal loro silenzio. Sinclair poteva articolare a fatica una parola, quantunque i suoi occhi fossero chiusi, ben si vedeva che l'anima sua era in preda a dolorosi pensieri. Dopo un istante, egli posò la mano su quella di Tom, inginocchiato vicino a lui, e gli disse: Tom, mio povero Tom. Ebbene, padrone, rispose Tom vivamente. Io muoio, soggiunse egli stringendogli affettuosamente la mano. Prega. Volete che si chiami un ecclesiastico? Domandò il medico. Sinclair fece rapidamente cenno di no con la testa, poi replicò con più ardore a Tom. Prega. E Tom si pose a pregare con tutto il cuore, con tutte le forze, per quell'anima vicina a spiccare il volo, per quell'anima che pareva lo guardasse tanto fissamente e tristemente da quei grandi occhi azzurri e malinconici. Fu una preghiera offerta con alte grida e lacrime, così come dice l'Apostolo. Quando Tom ebbe finito la sua preghiera, Sinclair gli prese la mano e lo guardò fisso nel volto, ma senza proferir parola. Poi chiuse gli occhi, seguitando a tenere la mano di Tom nella sua. Sulla soglia dell'eternità, la mano bianca e la nera si strinsero con reciproco amore, e Sinclair ogni tanto mormorava dolcemente a se stesso: Recordare Jesu pie, ne me perda silla die, querens me sedisti lassus. Certo, le parole che gli aveva cantato quel giorno stesso passavano attraverso il suo animo, parole di supplicazione rivolte alla misericordia infinita. Le sue labbra si muovevano di tanto in tanto e quelle parole ne uscivano deboli e staccate. La sua mente vaneggia, disse il medico. No, rientra finalmente in se stessa, disse Sinclair con forza. Finalmente. Questo sforzo lo spossò. Il pallore della morte gli coprì il volto, ma insieme con quello una meravigliosa espressione di pace, come se uno spirito misericordioso lo avesse ricoperto con le sue ali. Sinclair somigliava a un fanciullo stanco che dorme. Egli stette così per alcuni istanti. I testimoni di quella breve agonia videro che già la mano potente posava su di lui. Ma nell'atto di esalar lo spirito, Sinclair aprì di nuovo gli occhi, nei quali sfavillò d'improvviso un vivo raggio di gioia, come se gli ravvivasse qualche essere amato, e mormorò con voce sommessa: Madre mia! Indi spirò. 29. La debolezza senza appoggio. Udiamo spesso parlare del gran dolore da cui sono trafitti gli schiavi che perdono un buon padrone, e in verità non c'è sulla terra creatura più derelitta e più misera dello schiavo in tali circostanze. Al fanciullo che perdette suo padre resta ancora la protezione degli amici e quella delle leggi, egli è qualche cosa, egli può qualche cosa, ha un grado e diritti riconosciuti. Lo schiavo non ha nulla. La legge lo considera sotto ogni aspetto non altrimenti che come una balla di merce. Questa creatura umana, immortale, non deve avere affetti e bisogni se non quelli che la volontà assoluta del padrone gli concede di avere, e quando questo padrone più non esiste, nulla più resta allo schiavo. Appena Agostino Sinclair mandò l'ultimo sospiro, il terrore e la costernazione si impadronirono di tutti i suoi servi. Egli era stato abbattuto in tutto il fiore e la vigoria dei suoi giovani anni. In ogni lato della casa rimbombarono gemiti e grida di dolore disperato. Maria, il cui sistema nervoso era stato rovinato dalla stessa soverchia cura che ella aveva avuta continuamente della sua persona, non aveva più alcuna forza per sostenere quella sventura terribile. E nel momento che suo marito spirò, ella passava da uno svenimento a un altro. Di modo che quegli che le era stato unito nei vincoli sacri del matrimonio si separava da lei senza che gli fosse possibile di rivolgerle neppure una parola d'addio. Miss Ofelia, con la forza d'animo e con la padronanza di sé medesima che le erano proprie, era rimasta sino alla fine al fianco del suo congiunto, tutta occhi, tutta orecchi, tutta attenzione, facendo per lui quel poco che poteva farsi e unendosi con tutta l'energia del suo cuore alle fervide preghiere del povero schiavo per l'anima del suo padrone morente. Nel comporre la spoglia mortale di lui, gli fu trovato sul petto un medaglione chiuso a molla che conteneva da un lato una miniatura in cui era ritratta una nobile e bella testa di donna e dal lato opposto una ciocca di capelli neri. Il medaglione fu riposto con religiosa cura su quel petto inanimato, cenere con cenere, meschine e tristi reliquie dei cari sogni di giovinezza che avevano fatto una volta battere ardentemente quel cuore oramai freddo per sempre. L'anima di Tom era tutta assorta in pensieri di eternità e mentre gli rendeva gli estremi doveri a quell'argilla senza vita, l'idea che quella subitanea catastrofe gli toglieva ogni speranza di libertà mai gli corse alla mente. Egli si sentiva tranquillo sul conto di Sinclair, poiché durante l'ora solenne in cui Tom aveva effuso la sua preghiera in seno del Padre Celeste, egli ricevette in fondo all'anima sua risposta di assicurazione e di pace. Nella profondità della sua indole appassionata, sapeva concepire qualche cosa dell'amore divino, poiché un antico oracolo aveva scritto: colui che vive nell'amore vive in Dio e Dio in lui. E Tom sperava, confidava e la pace era nel suo cuore. La cerimonia funebre fu celebrata con tutto il suo corteo di veli neri, di preci e di mestizia solenne. Le onde gelide e melmose della vita di ciascun giorno ricominciarono il loro corso, poi ritornò l'eterna e dolorosa domanda: che cosa sa da fare adesso? E questa eterna e dolorosa domanda si presentò alla mente di Maria, allorché, in acconciatura da mattina e circondata dagli schiavi ansiosi e incerti, stava adagiata sopra un seggiolone esaminando mostre di crespo e di bambagina. Si presentò a Miss Ofelia, che cominciò a rivolgere il pensiero verso il suo Vermont. Si presentò finalmente in muti terrori all'animo degli schiavi, ai quali era nota l'indole fiera e dispotica di colei che ormai aveva ogni potere su di loro. Tutti sapevano che la goduta indulgenza procedeva dal padrone, non dalla moglie di lui, e ora che Sinclair non era più, nessuna cosa avrebbe salvato gli schiavi dai castighi tirannici che un animo inasprito dalle afflizioni potrebbe far loro subire. 15 giorni circa dopo le esequie, Miss Ofelia, che stava in faccende nella sua camera, udì bussare leggermente all'uscio e, aperto, vide entrare Rosa, la piccola e graziosa meticcia che noi conosciamo, coi capelli in disordine e gli occhi gonfi di lacrime. «Oh, Miss Ofelia!» proruppe Rosa gettandosi alle ginocchia di Ofelia e afferrando il lembo della sua veste. «Andate! Correte da Miss Maria, ve ne prego, parlatele in favor mio, ella mi manda fuori di casa per essere frustata, guardate!» E Rosa presentò a Miss Ofelia una carta. Era un ordine scritto dalla mano delicata di Maria al padrone di uno stabilimento correzionale perché fossero applicati alla latrice 15 colpi di frusta. «Ma che mai avete fatto?» le domandò Miss Ofelia. «Oh, voi lo sapete, Miss Felia, io ho un'indole cattiva che troppo male s'accorda con la mia condizione. Ebbene, stavo provando a Miss Maria la sua veste nuova ed ella mi ha dato uno schiaffo. Io, senza riflettervi, sono stata arrogante. Allora Miss Maria ha detto che avrebbe fiaccato il mio orgoglio e mi avrebbe insegnato una volta per sempre a non essere così sfrontata. Indi ha scritto questo e mi ha ingiunto di portarlo. Oh mio Dio, avrei più caro che mi avesse uccisa lì, subito!» Miss Ofelia stava in piedi, riflettendo, con la carta tra le mani. «Vedete, Miss Felia», continuò Rosa, «non mi importerebbe poi tanto d'essere frustata se fosti voi o Miss Maria a farlo, ma essere mandata a un uomo, a quell'orribile uomo, che vergogna! Miss Felia!» «Sedetevi qui, figliuola mia, intanto che io vado dalla vostra padrona», e Miss Ofelia si allontanò. «Che onta! Che mostruosità! Che infamia!» diceva tra sé e sé, attraversando la sala. Miss Ofelia trovò Maria mollemente adagiata sul suo comodo seggiolone, Mimì le stava aggiustando i capelli, Giovanna, seduta in terra dinanzi a lei, le scaldava i piedi. «Come state oggi?» le domandò Miss Ofelia. Maria mandò un gran sospiro e chiuse languidamente le palpebre. Tale fu per un istante la sua sola risposta alla domanda di Miss Ofelia. Finalmente si degnò pur di rispondere. «Oh, non lo so, cugina. Credo di stare sempre lo stesso e che non starò mai meglio». Così dicendo, si asciugò gli occhi con un fazzoletto di tela batista cinto tutto all'intorno da una larga striscia nera. «Vengo», proseguì Miss Ofelia con quella piccola tosse asciutta con cui s'affronta di solito un soggetto difficile, «vengo a parlarvi della povera Rosa». Gli occhi di Maria si spalancarono a queste parole di Miss Ofelia, le pallide sue guance si fecero come di fuoco. «Ebbene, che avete da dirmi di colei?» domandò con impeto. «È dolentissima della sua colpa». «Davvero? Oh, lo sarà ben più ancora per l'avvenire. È già troppo tempo che io sopporto l'impudenza di quella femmina. Ora, per domarla come si conviene, voglio umiliarla, voglio cacciarla nella polvere». «Ma non potreste castigarla in un modo che fosse meno vergognoso?» «Oh, è appunto quel che io desidero, che sia svergognata. Colei si è tanto insuperbita finora della sua bellezza, della sua aria signorile, che ha dimenticato chi è. Ma io le darò una lezione che le abbasserà ben bene l'orgoglio». «Ma cugina, pensate che se distruggete la delicatezza e il sentimento del pudore in una giovane, voi la depraverete ben presto». «Ah, la delicatezza!» disse con aria di disprezzo Maria. «Bella espressione davvero, trattandosi di una femmina del suo conio. Io le insegnerò che con tutto il suo orgoglio ella non merita più dell'ultima cenciosa che va mendicando per le vie. Oh, la vedrò umiliata, e presto, ve lo dico io». «Voi renderete conto a Dio di tanta crudeltà?» «Crudeltà? Mi piacerebbe conoscere che crudeltà è questa. Io ho scritto un ordine per 15 colpi di frusta soltanto. Raccomando perfino che non siano dati con troppa forza. Certamente non vi è in ciò crudeltà». «No?» disse Miss Ofelia. «Ebbene, io credo che tanto varrebbe l'uccidere qualsiasi donna o ragazza che il trattarla in tale modo». «Ciò può offendere il vostro modo di sentire, ma questa razza di gente ci è abituata e poi è l'unico mezzo per sottometterli. Ove si cominciasse a rispettare la loro delicatezza e via discorrendo, ci metterebbero sotto ai piedi, come i miei schiavi hanno sempre fatto. Ora è il mio intendimento di domarli e già li ho avvertiti che li manderò tutti alla casa di correzione per essere frustati. Se non badano meglio alla loro condotta», disse Maria, guardandosi intorno con piglio severo. Giovanna, udendo quelle parole, abbassò il capo, poiché comprese che la sua padrona aveva voluto alludere in modo speciale a lei. Miss Ofelia fece l'atto di chi avesse inghiottito un qualche amalgama di materie infiammabili e l'era lì lì per scoppiare, ma considerando l'assoluta inutilità di ogni discussione con una persona come Maria, chiuse risolutamente la bocca e, facendo un ultimo sforzo sopra se medesima, uscì dalla camera. Era una cosa dura al cuore di Miss Ofelia tornare dalla povera Rosa per annunziarle che nulla aveva potuto ottenere in favore di lei. E infatti uno degli schiavi venne presto a dire che la sua padrona gli aveva ingiunto di condurre Rosa alla Cala House e, nonostante le sue lacrime e le sue vive supplicazioni, la meticcia vi fu trascinata. Alcuni giorni dopo, Tom stava tutto pensoso affacciato al balcone, Quando gli si avvicinò Adolfo, il quale dalla morte di Sinclair era rimasto inconsolabile in uno stato di vero abbattimento d'animo. Adolfo non ignorava che Maria lo aveva sempre detestato, ma finché visse Sinclair non se n'era gran fatto curato. Ora che il suo padrone era morto, Adolfo passava i giorni travagliato da un timore continuo, mal sapendo quel che gli potrebbe accadere. Maria si era più volte trattenuta a lungo col suo avvocato, d'intesa col fratello di Sinclair, fu deliberato che la venderebbe la casa e tutti gli schiavi, tranne quelli che erano sua proprietà personale, e che ella voleva condurre seco ritornando alla piantagione di suo padre. «Sapete, Tom, che fra poco saremo venduti?» gli disse Adolfo. «Come lo sapete?» domandò Tom. Mi sono nascosto dietro le tende mentre la signora parlava col suo avvocato. Fra pochi giorni saremo tutti mandati all'asta pubblica. Sia fatta la volontà del Signore, rispose Tom incrociando le braccia sul petto e sospirando profondamente. Mai più ci toccherà un così buon padrone, disse Adolfo timidamente. Ma io preferisco d'essere venduto piuttosto che restar qui sotto le mani della signora. Tom si allontanò, aveva il cuore gonfio. La speranza della libertà e il pensiero della moglie e dei figli lontani sorsero dinanzi alla paziente anima sua, come al marinaio che naufraga all'ingresso del porto si offre la vista del campanile e dei cari tetti del villaggio nativo, scorti da lui dall'alto di qualche nero maroso, quel tanto che basta, per dir loro un ultimo addio. Tom si premeva con forza le braccia sul petto e frenando a stento le lacrime procurava di pregare. Il suo povero cuore aveva tanto accarezzato l'idea della libertà che quello fu un aspro colpo per lui. E più egli diceva «Sia fatta la tua volontà», più il suo dolore cresceva. Egli prese la determinazione di recarsi da Miss Ofelia, la quale fin dalla morte di suo cugino aveva trattato lui con una certa bontà rispettosa. Miss Ofelia le disse, il padrone mi aveva promesso la libertà, egli mi palesò che aveva cominciato a fare quanto era necessario per assicurarmela e ora, se Miss Ofelia si compiacesse di parlarne alla signora, ella forse si degnerebbe di compiere quelle formalità, poiché tale era il desiderio del padrone. Vi prometto di parlare in favore vostro, Tom, e di fare quanto è in me, rispose Miss Ofelia, ma se ciò dipende dalla signora Sinclair, io non spero molto per voi. Non di meno, mi ci proverò.